Radio Onda Rossa 87900, la modulazione di frequenza. Dal 1977, senza padrini, senza padroni, la radio è di chi se la sente. Chi se la sente può contribuire a farla vivere, ad esempio con una sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 6180-4001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56-00185 Roma. Oppure consultando il sito della radio, che è ondarossa.info, alla voce, sulla home page alla voce sostieni troverà anche la modalità PayPal. Cominciamo Visionari, l'appuntamento con il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, il telefono 0649 1750, per gli sms 342 357 4357, e poi c'è la nostra pagina Facebook Visionari e anche chiaramente il sito internet della radio alla voce trasmissioni Visionari. Cominciamo con qualche minuto d'anticipo perché abbiamo un collegamento da Londra con Enrica Colusso. Intanto benvenuta a Visionari su Onda Rossa. Grazie dell'invito. È un po' che ci stiamo rincorrendo, finalmente ci siamo riusciti ad avere questa tua presenza qui oggi. Per parlare del tuo documentario Home Sweet Home, allora raccontaci un po' di questa storia. Allora, Home Sweet Home è un documentario che è il mio primo documentario. In realtà io vivo a Londra da 20 anni ormai, on and off come si dice qua, ma fondamentalmente è la mia città d'acquisizione. E questo è il primo documentario che giro, a parte le cose delle scuole, avendo fatto la National Film School qua, eccetera, in questo paese e nella città in cui vivo. E è un documentario che è stato girato nell'arco di 3-4 anni, sì. E racconta la trasformazione profonda del quartiere dove io vivo, che è un quartiere centrale, nel senso che è zona 1, subito sotto il fiume a sud, sotto la Tate e Waterloo, sì. Però è un quartiere estremamente popolare e molto etnico. È un quartiere che è stato molto bombardato durante la guerra, e quindi dopo la guerra, negli anni 60-70, c'è stata questa enorme ricostruzione di una serie di council estates, tra cui Legate Estate, che è questo estate che è proprio fuori dalla mia finestra, dove vivevano 1200 famiglie, 3500 persone, e che sono state evacuate per demolirlo e fare spazio a questa nuova città, che porta una visione molto diversa da quella degli anni 60-70, che era basata su una visione del welfare state, delle case sociali, delle case popolari, mentre questa è una rigenerazione fondamentalmente portata dai privati, sì. E quindi dove ci sarà la maggior parte delle case ricostruite saranno private, e quindi c'è una sorta di displacement, di quello che i locali chiamano gentrificazione in qualche modo, un cambio della natura delle persone che vivono qua. E quindi il film racconta, segue, come fanno spesso i miei film, molto da vicino, intimamente, una serie di personaggi, sì. In questo caso la maggior parte dei personaggi sono le famiglie che abitano questo estate, però anche tutte le altre prospettive, quelle dell'autorità locale, del council, dei developers e degli architetti, e costruisce questa sorta di epopea, che racconta e che questiona soprattutto la visione sociale dell'Inghilterra e come si è trasformata dagli anni 70, dalla Thatcher in poi. Ecco. Sì. Senti Enrica, come è nata intanto questa spinta, questa esigenza di raccontare questa trasformazione urbana? Ma i miei film, soprattutto negli ultimi 2-3 film, si scrivono spesso in territori a cui io appartengo. Sì. E tipo il mio precedente film ABC Colombia racconta cosa significa crescere in una zona rurale della Colombia, la Sierra Nevada de Santa Marta, dove io ho una piccola terra insieme a mio marito, e quindi in qualche modo c'è questa sorta di appartenere però essere un esterno. Che è quindi una delle... anche con un occhio più obiettivo per certi versi. Esatto, con un occhio più obiettivo e allo stesso tempo con un questionamento di che cosa significa appartenere, sì. Che è sempre, negli ultimi 10 anni, un po' una delle cose che mi affascina raccontare, il rapporto tra la persona e il luogo, e in qualche modo questa cosa dell'appartenenza, forse anche perché vivendo a Londra e poi viviamo ormai in una società in cui tutti appartengono e non appartengono, appartengono in modi diversi, per cui questo è una, e infatti il film in qualche modo uno dei temi dei film è che cos'è, what is home, che cosa significa casa. quindi al di là dei mattoni eccetera, c'è tutta questa, diciamo, questo rapporto esistenziale ontologico in qualche modo con questo spazio che viene anche questionato, quindi c'è un aspetto anche poi poetico, filosofico, diciamo, e il film è portato, visto che la mia finestra, che è un po' il frame che inquadra Leggett Estate, diventa anche uno spazio narrativo e quindi un po' portato anche da questo mio viaggio di incontro con tutta una serie di persone di interrogazione di una serie di cose, tra cui a chi appartiene la città, nel senso che c'è un processo comunque di privatizzazione delle città, in particolare in Inghilterra, ma credo in tutto il mondo, che è anche, una delle, delle cose che si raccontano. Diciamo. Ecco, mi piaceva infatti proprio il termine che hai usato, centrificazione, che ricorda anche un po' in toni chiaramente minori e più dilatati nel tempo quello che è avvenuto a Roma per rioni storici, penso ad esempio a Trastevere, con la popolazione residente lì da centinaia di anni che poi in pratica è stata deportata altrove e adesso le case è diventato comunque un luogo piuttosto turistico, e quindi rientra nel discorso tuo sulla privatizzazione e anche sul divertimentificio con l'apertura di un locali uno dietro l'altro. Ecco, e visto sì, diciamo che vai, continua. No, diciamo che in questo contesto, mentre il contesto, diciamo, questo processo è un processo che è sempre avvenuto organicamente nelle città, cioè delle zone che erano, diciamo, popolari, eccetera, che sono state borghesicizzate o gentrificate. La differenza con questo è se vuoi, una non è organico, è una progettualità. Qui si sta parlando di centinaia di 170 ettari, di un pensiero globale fatto dal comune in qualche modo insieme ai privati, e quindi di un disegno, di un pensiero di città che è un po' diverso dal fatto che lentamente delle zone si trasformano, soprattutto quelle centrali, quindi diciamo in qualche modo ritornando alla tua questione prima, cioè che qual era, insomma, perché raccontare questa storia, secondo me questo è uno dei modi di raccontare la trasformazione di una società, perché la visione urbana in qualche modo include tutti i livelli, cioè da quello emotivo, appunto il rapporto con la tua comunità, con la casa dove sei cresciuto, dove è nato tuo figlio, eccetera, eccetera, però anche tutte le policies in qualche modo, diciamo, le leggi che permettono, quindi l'economia, la politica, eccetera. Quindi diciamo, ecco, permetteva in qualche modo un racconto sulla trasformazione dagli anni 70 a oggi della società inglese, che è una delle società del welfare state, quindi del pensiero sociale, che si sta sgretolando. Ecco, ecco, questa pianificazione implica anche la fine delle tante microcomunità che determinano poi la vita di un rione o di un pezzo di città. Sì, c'è questo è, diciamo, in qualche modo questa pianificazione era anche avvenuta negli anni 70, dove c'è stata un'altra grossa rigenerazione, che un po' appunto il film in qualche modo si inscriveva temporalmente tra la visione degli anni 60-70 che aveva generato questa enorme rigenerazione, che era anche molto pianificata, però con una visione di chi, per chi era per le persone che vivevano negli slums e quindi avevano, diciamo, ripulivano lentamente questi slum e li davano queste nuove case. Adesso invece è sempre enormemente pianificata, però in qualche modo è per il privato, quindi c'è tutta un'altra visione che va a parallela a tutta una serie di altre cose che stanno succedendo, che fa sì che il centro delle città, cosa che è già successo a Parigi, come tu dicevi, è successo a Roma, eccetera, però forse con la villetta, che era anche abbastanza pianificata a Parigi, e che qui sta succedendo adesso, mentre fino ad oggi, diciamo, in qualche modo le politiche urbane erano inclusive, nel senso che ogni quartiere doveva avere un po' di tutti, diciamo, ecco proprio per fare spinti fuori, esatto, per trarre un bilancio, visto che comunque i tuoi interlocutori sono stati sia la popolazione che architetti e comunque addetti ai lavori, volevo chiederti, ecco, che mosaico ne esce, che quadro ne esce, sia per quanto riguarda se ci sono miglioramenti rispetto alla città e quali invece gli aspetti più deteriori. Ma dunque, diciamo che le generazioni tra l'altro sono dei processi lentissimi, soprattutto quelle enormi, questa sarà una qualcosa che andrà avanti per altri 20 anni, per il momento quello che c'è è una grossa ghost town, una città fantasma, cioè queste enormi costruzioni sono tutte chiuse e aspettano di essere demolite, e quindi lentamente in un futuro ci sarà una nuova città. Uno può guardare solo alla visione, in questo momento non ispira più di tanto, anzi preoccupa un movimento dove sia a livello di case eccetera, ma anche a tutti gli altri livelli, diciamo, i più fragili sono in qualche modo ancora più fragili, diciamo, una società che non si prende più cura, o comunque che non sembra volersi prendere cura dei più deboli. Questo è un po' quello che sì, trasmette, sì, sì, questa visione e tutta una serie di altre cose che stanno succedendo, e la grossa questione è chi paga, come al solito, no? E però quindi la società vuole prendersi la responsabilità di pagare, diciamo, per includere in qualche modo anche i più deboli, oppure ognuno è per sé, e chi può poi, chi non può, non so. Si attacca al famoso albero, esiste in curva. Sì, sì, sì. Quindi ecco, questo è un po', quindi non è una visione rassicurante. Certo. E vedremo poi, insomma, col tempo come ovviamente c'è tutta una resistenza. Ci sono tutta una serie di forze che si oppongono, però diciamo sono fragili e poco coordinate, come sempre, insomma. Sì, spesso succede. Senti, Enrica, il tuo lavoro, ricordiamolo, del documentario Home Sweet Home, dove sarà possibile fruirlo, se ha un programma anche di proiezioni, e se c'è un tuo sito internet per vedere anche il resto delle tue produzioni? Non c'è un sito internet, però sto lavorando sul mio prossimo progetto, che è in realtà parte dal film, ed è un documentario interattivo che ripropone il materiale del film, ma anche molto materiale che non c'è nel film, e quindi questo processo, ci sarà ovviamente un sito online dove uno può sia navigare nuovo lavoro interattivo, e sia vedersi il film lineare. In questo momento a Londra ci sono tutta una serie di proiezioni, però in Italia c'è stata una alla Tate Gallery lunedì scorso, ce ne sarà una lunedì 15 qui localmente, in un cinema locale, però in Italia non c'è ancora una programmazione. È stato al Turin Film Festival, eccetera, in parte perché non c'è una copia sottotitolata, quindi bisognerà forse i film di sì, che sono i produttori, al più presto vedere se vogliamo fare una copia sottotitolata da mandare magari nelle sale in Italia, eccetera. E si può ovviamente vedere nel video on demand di Arte, che è la televisione che lo ha prodotto, e credo anche comprare in DVD dai film di sì. Bene, non c'è poi ancora una programmazione nelle sale. Ci farai sapere allora delle prossime novità. Enrica, io ti ringrazio, è stato un piacere, anche con molto interesse che ho seguito questa tua produzione, anche questi tuoi ragionamenti sulle trasformazioni urbane. A sentirci presto a questo punto. A presto allora, buon lavoro. Ciao Enrica. Ciao ciao. Enrica Colusso, regista del documentario Home Sweet Home. Ben ritrovato Mario Balsamo, co-regista del documentario Noi non siamo come James Bond, in uscita in sala il 12 aprile. Mario, ben ritrovato. Grazie, ben ritrovati a voi. Allora, un lavoro a quattro mani, di cosa si tratta, Mario? Allora, siamo io e Guido Gabrielli, due autori di questo film, di cui io sono il regista, Noi non siamo come James Bond, che inizialmente doveva essere un film sulla malattia, due brutte malattie che hanno colpito prima Guido, e quindi siamo anche in scena noi, e poi me nel 2009, due tumori, da cui parte una sorta di on the road mosso da quella domanda che spinge un po' tutte le persone che si trovano di fronte queste malattie: perché ci siamo ammalati, cioè perché è capitato a me, no? Sembra impossibile che capiti proprio a noi, e poi quando ci capita la prima domanda è questa. In realtà poi questo film è molto poco un film documentario sulla malattia, ma è molto di più un viaggio, anche perché poi la malattia ha una caratteristica, come dire, di viaggio dentro se stessi, dentro il proprio passato, nelle prospettive future, e diventa un viaggio in cui sono in compagnia del mio migliore amico, insomma, come facevamo questi viaggi quando avevamo 20 anni, abbiamo deciso di rifarlo adesso che abbiamo 50 anni dopo questo incidente di percorso, con una prospettiva evidentemente diversa, però con una sintonia che è quella di Bond. Che cosa c'entra Bond? Bond c'entra perché noi quando eravamo in viaggio in Europa e avevamo 20 anni col sacco a pelo, l'Interrail, un po' sudici e poco proponibili, capitavamo sempre in queste città europee dove usciva al cinema l'ultimo Bond. Noi andavamo per farci un po' male a vederlo e scoprivamo insomma questa sua irraggiungibilità, questa sua perfezione, questa sua immortalità, ma anche questo suo essere a suo agio in qualsiasi luogo del mondo, da subito. E 26 anni dopo, quando ho deciso di fare questo film e ho chiamato Guido, lui mi ha detto: ma tu ti ricordi che noi dovevamo fare questo film, noi non siamo come James Bond, che avevamo pensato proprio in Islanda nell'85. E abbiamo scoperto poi, pensandoci un attimo, che questo doveva essere il titolo e che quello doveva essere il film, perché profeticamente noi siamo ancora distantissimi da Bond, ancora di più anzi adesso, perché lui è assolutamente immortale, ringiovanisce degli attori che scelgono per interpretare il suo ruolo di volta in volta, mentre noi abbiamo contattato la morte così da vicino. Com'è stato anche riaffrontare la strada un quarto di secolo dopo, anche con questa esperienza alle spalle della malattia? Ma devo dire che è stato riaffrontare la strada un po' diverso, perché poi io ho continuato, forse in maniera anche un po' adolescenziale, a differenza di Guido, a fare viaggi, a fare l'autostop e ad andare in giro col sacco a pelo, insomma. E in molti ostelli, infatti, dove arrivo, di europei o del mondo, gli altri giovanissimi mi guardano un po' male, però poi dopo qualche giorno mi accettano nelle camerate che si condividono. Però qui il viaggio è stato invece in dei luoghi a noi familiari, che sono, diciamo, quelli che hanno contato nella nostra vita, più che hanno contato, che hanno segnato, insomma, la nostra vita: la Latina, la spiaggia di Sabaudia, Milano dove vive adesso Guido, Roma dove vivo io, Perugia, che è stato uno dei primi viaggi a Umbria Jazz, dove allora appunto si dormiva tutti in sacco a pelo nelle piazze. L'ho fatto anch'io, sì. Ed è una cosa indimenticabile e assolutamente straordinaria. Però questi luoghi sono diventati dei luoghi interiori, per cui siamo riusciti a guardarli imprevedibilmente con uno sguardo diverso, anche se sono luoghi familiari, perché in effetti è come se avessero un sapore di noi esploratori in dei luoghi familiari a seguito di situazioni che ci hanno messo di fronte agli occhi gli stessi posti, ma con delle tonalità, dei colori assolutamente diversi. Senti Mario, allora il 12 aprile al Nuovo Cinema Aquila ci sarete anche voi. E domani, sì. Esatto, domani. Intanto ricordiamo l'appuntamento e l'orario, e poi voglio sapere anche, visto che si parla di uscita, come sarà poi la situazione in Italia o comunque nelle altre sale. Allora, domani innanzitutto è alle 20:30 e avremo la apprezzatissima presenza di Paolo Sorrentino, che introdurrà il film. Sì. Lui è stato presidente della giuria di Torino che l'ha premiato, e da allora siamo diventati amici. Lui ha apprezzato molto il film e quindi ci aiuterà domani a presentarlo. Al Nuovo Aquila resterà in due orari, 20:30, 22:30, fino a lunedì 15. Sì. E poi andremo in giro in un piccolo circuito che abbiamo messo a punto insieme allo scrittoio di Milano e che ci rende particolarmente felici in un po' tutta Italia, Bologna, con la Lumière, con la Cineteca, Bari con il circuito d'autore. Speriamo adesso anche la conferma di Firenze, Genova, poi abbiamo La Spezia, andremo a Pordenone, a Vicenza, Napoli, insomma, Di ne nuovo on the faremo road, insomma. tante. Esatto, continuiamo la seconda parte del film, che poi è quella più piacevole, Sì, insomma. sì, sì. Bene, Mario, io ti abbraccio, a risentirci presto per le prossime novità. Io ringrazio voi e invito tutti ad andarlo a vedere e di nuovo un abbraccio a voi. Ciao, ciao, Mario. Ciao. Mario Balsamo, co-regista del documentario Noi non siamo come James Bond, in uscita in sala domani 12 aprile qui a Roma al Nuovo Cinema Aquila. Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Per gli SMS il numero è 342-357-4357. Alina Marazzi, ben ritrovata a Radio Onda Rossa, Visionari. Ciao, ciao. Se non sbaglio, ci eravamo sentiti per Vogliamo anche le rose, se ricordo bene. Assolutamente Allora, sì. sei qui per un film questa volta, non un documentario. Racconta un po' di questa storia. Sì, è un nuovo film, si chiama Tutto parla di te, è un film di finzione, questo per me è un po' una novità. Anche se naturalmente ho avuto così voglia di mettere un po' in discussione il dispositivo della finzione, tant'è che è una storia appunto intrecciata con altri linguaggi, altri elementi visivi, cinematografici, quindi il documentario, l'archivio, l'animazione, la fotografia, insomma, continuo un po' in questo mio percorso di mescolamento di linguaggi visivi. Sì, raccontiamo anche un po' l'argomento in questione per chi ci ascolta e vuole venire a vederti. Assolutamente. Allora, al centro del film è, diciamo, la tematica del rapporto madre-bambino piccolo e quindi è un film che racconta gli aspetti meno raccontati della maternità e i lati oscuri, quelli un po' più negativi, insomma, l'ambivalenza materna che esiste, è anche molto diffusa e di cui invece non si parla molto. Ecco Alina, proprio in questo mi veniva anche la domanda, visto che comunque nell'ultimo periodo tra documentari e film la maternità è stata affrontata anche dal punto di vista dei lati oscuri, come Sì. ricordavi tu, è un fenomeno che non ha spazio e tempo o comunque invece è tipico della nostra società? Ma io credo che in realtà appartenga alle donne di tutte le generazioni, solo che un tempo la cosa era ancora meno riconosciuta e addirittura il termine depressione postpartum non esisteva, non era contemplato, si parlava di esaurimento nervoso che le donne potevano avere così nel puerperio. Oggi è vero che per come viviamo le nostre quotidianità e anche per la grande pressione probabilmente che le donne hanno, no, proprio sul doppio lavoro che continuano a fare, quello in casa e quello fuori, questi fenomeni di disagio sono sicuramente esasperati e forse in aumento. Si parla di un 15% di donne che soffrono di depressione postpartum e addirittura di 70% di donne che soffrono di maternity blues, che sarebbe, diciamo, quella depressione passeggera temporanea che può durare anche solo 2 o 3 giorni dopo il parto. Oh, nel fare questo ti sei appoggiata a una struttura che si occupa proprio di questo. Sì, per lavorare a questo film io sono partita come sempre dalla realtà, facendo una ricerca, andando a parlare con mamme che avevano avuto diciamo, percorsi problematici e con le tante associazioni di ostetriche, psicoterapeuti e altro che fanno un lavoro molto prezioso sul territorio di sostegno alla maternità. Queste sono associazioni, non solo associazioni private, ma anche alcune gruppi molto coraggiosi che lavorano all'interno del pubblico, degli ospedali, fanno un lavoro quotidiano, corpo a corpo, proprio con le mamme, osservandole e sostenendole, consigliandole, anche a volte andandole, seguendole a casa, che è una cosa molto, molto utile. Mm-hmm. E quindi partendo dalla realtà, io ho raccolto delle storie, tutte vere, che in parte sono confluite nel film come storie vere, proprio mediante il linguaggio del documentario, e in parte invece sono state in qualche modo tradotte in sceneggiatura, e quindi la sceneggiatura che poi è interpretata dalle due attrici, la Rampling e Elena Radonicic, comunque parte da storie vere. Mm-hmm. Ti volevo anche chiedere, rispetto al problema, uno dei problemi principali che emerge sia da altri lavori che dal tuo, ad un certo passaggio, è quello della solitudine che colpisce le donne. Sì, a volte, cioè, la solitudine sembrerebbe essere un po' una dimensione, una condizione della maternità. Questo è paradossale, perché nel momento in cui si dà vita a un bambino, in realtà non si è più soli, si è in due, però a volte questa solitudine è reale, proprio perché dovendoci occupare del bambino si passa più tempo a casa, si cambiano i propri ritmi, quindi magari si esce momentaneamente dal mondo del lavoro, si cambiano le proprie abitudini sociali. Dall'altro, questa solitudine è anche una condizione intima, psicologica molto, molto forte, molto diffusa. Ci sono situazioni in cui apparentemente tutto va bene, c'è un compagno presente, una famiglia che sostiene, non ci sono problemi reali, eppure il sentimento di spaesamento che può provocare un'inadeguatezza, anche un'impotenza davanti a questa grande responsabilità che è il prendersi cura il bambino appena nato, può provocare questo sentimento di solitudine, di isolamento. Mm-hmm. La scelta di Charlotte Rampling, che storicamente, se dovessi darle una definizione, la definirei un'artista enigmatica, ecco, ha avuto questo senso anche per te, la sua presenza lì? Assolutamente, la Rampling, diciamo, per un certo tipo di donna è anche un po' un modello, è una donna molto libera, mi sembra che abbia fatto le sue scelte di vita artistiche in maniera veramente libera e coraggiosa, e per il suo aspetto appunto è nota per esprimere un mistero, no? Un po' avvolta da un alone di mistero. Il personaggio al centro del mio film è una donna che nasconde un segreto che appartiene al suo passato, e così ero alla ricerca di un volto, di una donna grande, adulta, che potesse al tempo stesso esprimere un'irrequietezza, un'incertezza, una fragilità nel suo sguardo, che la Rampling sicuramente ha, e al tempo stesso anche una fermezza, una solidità. Per quanto riguarda, insomma, l'esperienza che ho dei tuoi lavori, a partire da Vogliamo anche le rose, passiamo qui adesso ad un livello estetico. Un utilizzo elegante del materiale d'archivio, e a questo punto, visto che lo hai utilizzato anche in questo film di finzione, volevo chiederti in che rapporto sono per te il passato e il presente? Il passato e il presente? Sì. Ma è vero appunto che anche con i miei film precedenti volgo uno sguardo al passato, ma è sempre uno specchio per guardare, osservare, capire meglio il presente. Evidentemente c'è una mia pulsione che ha a che fare anche con la mia storia personale, questa di guardarsi indietro per capire chi si è oggi, ecco, come è importante riconnettersi con le proprie origini anche per superarle, ecco, non per guardare al passato in maniera nostalgica o come chiave di lettura del presente. Insomma, guardare al passato è anche riconoscere che facciamo parte di una certa identità culturale, certo, e anche di genere. Ecco, proprio a questo proposito mi viene invece da pensare che una società invece che va all'opposto rispetto a questa tua tendenza alla rielaborazione del passato. Sì, diciamo che è un po' così, diciamo che questo appartiene un po' alla nostra così cultura forse occidentale, non lo so, ci sono forse dei paesi che hanno fatto un lavoro maggiore di scavo del passato, forse i tedeschi sono un po' più avanti di noi, pur avendo avuto appunto un passato molto più pesante da metabolizzare. E gli italiani così tendono a non fare tesoro delle tante esperienze che la nostra cultura, la nostra storia ci ha portato, insomma, che abbiamo agito noi come italiani. Sembra sempre di ripartire da livello zero, invece insomma di esperienze collettive e individuali sì. Ne abbiamo fatte. Sì. Bene Alina, allora in uscita da oggi, giovedì 11 aprile, Tutto parla di te, in quante copie uscirà? Il film è distribuito da BIM, esce oggi, come giustamente hai detto, circa una 20-25 copie in una ventina di città, per il momento concentrate tra il nord e il centro Italia, speriamo poi che si allarghi questa rete di città. Io sto facendo qualche presentazione in giro nelle diverse città, anche coinvolgendo quelle associazioni, quelle realtà che si occupano di maternità, proprio per dare seguito con un dibattito, famoso dibattito, sulle tematiche, insomma, con le persone che ne possono parlare con cognizione di causa. Allora un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a voi e buona visione. Ciao Alina. Ciao. Alina Marazzi, regista del film Tutto parla di te. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, per parlare di cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15. Proseguiamo con gli ospiti. Parliamo adesso di un documentario, Bimba col pugno chiuso. Avevamo in programma di sentire Luca Mandrile, che è il co-regista di questo lavoro, che sarà presentato il 13 aprile, quindi dopo domani, al Nuovo Cinema Aquila, e invece ne parliamo con Maurizio Ribichini, che ne ha curato l'animazione. Maurizio, ci sei? Sì, ci sono, eccoci, ciao. Allora, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Sì. Allora, tra l'altro stavamo parlando poco fa con Alina Marazzi, che è la regista di Tutto parla di te, che esce oggi in sala, che ha una parte di film in animazione, però in stop motion, sono piccoli pupazzi. Nel vostro caso invece, allora partiamo intanto dalla storia, che tra l'altro questa mattina ho scoperto, ascoltando la mia radio, che stavano mandando in onda alcuni spezzoni con la voce della protagonista. Ho detto, ma guarda un po', oggi se ne parla tanto, cioè, tra gli spezzoni e poi l'intervista che farò dopo nella mia trasmissione, insomma, mi sembra un riflettore puntato piuttosto interessante. Bimba Bene. Col pugno chiuso, chi è questa donna? Allora, questa donna risponde al nome di Giovanna Marturano, è una simpatica signora che il 27 marzo scorso, quindi qualche settimana fa, una o due, ha fatto 101 anni, sì. Ma non è per questo che noi abbiamo fatto un documentario su di lei, è che perché avendo 100 anni, se tu pensi che magari quando lei aveva 10 anni ha visto la marcia su Roma, ha visto appunto crescere piano piano quel mostro chiamato poi, nonostante i vari revisionismi storici, fascismo, e l'ha combattuto con il suo spirito, perché è arrivato a 101 anni con uno spirito veramente invidiabile. Gli abbiamo chiesto fuori onda qual era il suo segreto, qual era il suo elisir, e lei ci ha risposto che appunto, come recita anche la copertina del DVD, non c'è altro fatto che combattere. Questo l'ha mantenuta giovane, l'ha mantenuta lucidissima, l'ha mantenuta una persona simpaticissima e aperta poi a tantissime variazioni, chiamiamole così, insomma, culturali, che ha visto il secolo scorso passare sopra a questo nostro paesotto italiota, insomma. Quindi per noi, ma non solo per noi, insomma, Giovanna rappresenta una testimonianza storica, una fonte proprio storica impressionante. Dirò di più, non è chiaramente un discorso puramente storico, ma è una sorta di microstoria, cioè ci si cala proprio nell'esperienza quotidiana che è stata di Giovanna, con i suoi racconti, che sono sempre pieni appunto di spirito e autoironia, una forte autoironia, E quindi ci caliamo appunto in questa micro storia che a mo' di specchio ci ridà appunto invece la macro storia appunto di questo paese. Come eravate arrivati a lei? Eravamo arrivati a lei, ci sono arrivati a loro, a lei, anzi ci sono arrivati il gruppo Todomodo, appunto, dove sì, prima hai citato sì. Luca Mandrile, e per completezza cito anche Umberto Migliaccio, certo. E Claudio Di Mambro, che sono i tre filmmaker che sono anni insomma che si cimentano in documentari e riportano a galla memorie altrimenti insomma scomparse. Il penultimo lavoro insomma che avevano portato a termine era appunto Di Lotta Si Vive, che era una sorta di intervista documentario a tre persone appunto che ci raccontavano anche lì le loro storie, e una di queste era appunto Giovanna Marturano. Mi dicevano loro che appunto il girato relativo a Giovanna era così tanto, era così interessante, che era veramente un peccato tenerlo nel cassetto, e quindi lo hanno ritirato fuori e ci abbiamo fatto questo documentario. Mi hanno chiesto appunto una partecipazione attiva alla cosa, perché ci sembrava appunto che una volta conosciuta Giovanna lo spirito giusto per entrare in questa sua storia, in questa nostra storia, potesse essere appunto la via dell'autoironia, e la via più leggera, ma parliamo di leggerezza come la intendeva Calvino, semmai. Certo. E quindi appunto la sua storia è intervallata da una sorta di flashback in qualche modo, animati, semplicemente. Flashback animati, ecco, l'animazione in questo lavoro riveste un ruolo piuttosto importante, come mi diceva anche Luca, insomma, loro ci tenevano molto. Come hai deciso di applicarla a questa avventura dei flashback resi in maniera animata? Sì, guarda, in realtà all'inizio ci siamo, io continuo a usare il noi, perché effettivamente poi comunque è stato un lavoro di gruppo, anche se ognuno con le sue esperienze insomma, quindi dico ci siamo in qualche modo trovati a decidere che tipo di linea dargli, e ahimè abbiamo in qualche modo decisa la linea cronologica, dico ahimè perché magari poteva essere quella più banale, ma in realtà poi alla fine nella visione del documentario non si sente affatto una scansione storica, non c'è un avvenimento dietro l'altro riportato così in maniera molto didascalica, ma è un fiume di parole che appunto si intervalla, si contrappunta, se vuoi, ecco, è molto più musicale la cosa, con delle animazioni. Non sono, io ho detto flashback, ma in realtà non possono nemmeno considerarsi flashback gli interventi animati, se non quasi una sorta di in più per dare un po' di sapore appunto a quello che era il testo sonoro, appunto, cioè la voce di Giovanna che ci raccontava le sue cose. Altre cose appunto abbiamo anche deciso di non intervenire proprio con le animazioni, perché bastava veramente il suo ricordo narrato che, sì. che è cioè stavo di fichissimo, ma vabbè concedimelo appunto, è fichissimo, cioè ti lascia ipnotizzato, lei è tuttora ancora gira nelle scuole superiori, inferiori, portando appunto la sua storia, parlando ai ragazzi, e lei continuamente a casa riceve i ragazzi che dopo anni o anche dopo mesi continuano a tornare da lei perché sono rimasti colpiti da tanta energia, insomma, e tanta voglia di raccontare, con, ripeto, appunto, quello spirito lì, insomma, cioè è completamente demolita, se mai ce ne fosse stato paura, la retorica, no, della figura eroica, del partigiano che combatte, ma è riportata veramente con i piedi per terra, cioè persone fatte di carne e sangue, di emozioni, di paure, di gioie, e quindi ecco, il piano si sposta tutto quanto molto sull'aspetto più emotivo, sì, una storia sì, emotiva, sì. Bah, potrei snocciolare, e però appunto abbiamo visto che anche facendo dei tester, insomma, cioè provando gli spezzoni che più o meno avevamo riusciti a chiudere, facendoli vedere, e niente, se ne rimani coinvolti proprio per l'energia del suo narrare. Infatti io credo che le animazioni saranno la cosa che meno verrà calcolata nel documentario, perché sono così forti appunto le sue parole, il suo modo di raccontare, le sue espressioni, che appunto, magari forse sono un surplus, chi lo sa. Lei comunque ne è rimasta contentissima delle animazioni, perché dice che finalmente, appunto, siamo riusciti a leggere in qualche modo l'aspetto ludico anche dei suoi racconti, l'aspetto autorionico, anche dove non c'è nulla da ridere, però lei dice che questa bambina che ha ritirato fuori, perché è appunto una sorta di pupazzetto, insomma, che la interpreta, per lei è fantastica, cioè ci si è ritrovata completamente, tant'è che poi appunto se avrete modo di vedere tu e gli ascoltatori, oppure di passare appunto sabato alle 18:30 al Cinema Nuovo Aquila, e quindi di vedere la locandina o la copertina anche del DVD, non è un disegno, apparentemente sembra un disegno la copertina, in realtà è una pupazza che Giovanna ha fatto su un mio disegno, per quanto appunto, per dire quanto gli è piaciuta la cosa, ha voluto farne una pupazza proprio in stoffa, quindi abbiamo poi avuto anche l'elemento 3D di tutta l'animazione. Senti Maurizio, una cosa che sentendo di parlare mi è venuta in mente, qual è uno degli aspetti o degli episodi che più ti ha colpito di questa sua avventura? Guarda, dei racconti di Giovanna, quello che mi ha più colpito è stato senza dubbio il giorno in cui lei è andata a votare. Perché? Perché era appunto il primo voto delle donne, lei aveva sempre combattuto in questo e per questo, e mi ha colpito appunto, come l'ha raccontato, mi ha colpito come ancora lei lo senta forte questo momento, che per lei è stato in qualche modo, dopo anni di appunto lotte anche contro il fascismo, contro il nazismo, si ritrova in una sorta di Italia unita, ma che già gli puzza, e di una Repubblica, ma che già gli puzza, e si ritrova a votare per la prima volta. Lei dice, a me mi giravano le gambe, mi girava la testa, perché era la prima volta a tot anni che in qualche modo sentivo che la mia identità aveva assunto un valore, cioè io ero donna e contavo anche come persona, e questo chiaramente nella consapevolezza di qualsiasi persona, immagino, non può che farti tremare le gambe, appunto. Sì. Questa è la cosa che più mi ha colpito, perché appunto quando lo racconta lei riesce ogni volta a tirarlo fuori, quell'aspetto appunto emotivo, che ti fa capire che appunto poi nella la nostra felice Repubblica, così tanto giovane e stupenda, stiamo ancora parlando di queste cose. Sì. Cioè, che ne so, stipendi a parità di mansioni, stipendi differenziati perché sei uomo o perché sei donna. E lei questo lo avverte ancora tutto ancora sulla sua pelle, come a dire, cavolo, ho 101 anni, ho combattuto per questo, l'ho anche ottenuto, e però quello che riesco a vedere è comunque una sorta di parziale vittoria, insomma. Questo che mi colpisce una persona che si è fatta veramente una storia, c'è un secolo di lotta, e sapere che in qualche modo lei ne è consapevolissima, insomma, degli anni, e gliene auguriamo chiaramente tanti, che gli rimangono, è consapevolissima che questa lotta lei non l'ha chiusa, e infatti continua a girare per le scuole, eccetera. Senti Maurizio, allora ricordiamo l'appuntamento di sabato al Nuovo Cinema Aquila qui a Roma, e poi volevo chiederti anche se ci sono dei riferimenti internet per questo documentario. Sì, giusto, bravo che me l'hai ricordato. E allora, quindi sabato 13 aprile alle 18:30 al Nuovo Cinema Aquila, ricordo che l'entrata è gratuita, quindi insomma venite in massa, e riferimenti invece appunto, se volete aggiornare appunto le vicissitudini della bimba col pugno chiuso, alias Giovanna Marturano, prendete nota, questo è un indirizzo, è bimba col pugno chiuso, tutto attaccato, .wordpress.com, e lì questa è una sorta di blog appunto dove di volta in volta aggiorniamo sia le proiezioni che faremo poi in tutto il territorio nazionale, sia degli altri eventi. Poi c'è anche il gruppo Facebook, basta cercarlo appunto, una volta aperto Facebook, bimba con il pugno chiuso, perché l'indirizzo è lunghissimo e quasi uno scioglilingua, e poi darei anche l'indirizzo dei Todomodo, e anche qui è todomodofilms.wordpress.com. Bene. Per rimanere aggiornati appunto anche lì su i prossimi, ma anche i vecchi lavori che hanno portato a termine, perché continuano a essere proiettati, fortunatamente continuano ad avere un certo interesse. Maurizio, io ti ringrazio, in bocca al lupo. Io ringrazio te e tutta la redazione di Radio Onda Rossa. E più che in bocca al lupo, un bel saluto a pugno chiuso. Io esatto. Direi. Ciao Maurizio. Un abbraccio, grazie, ciao. Ciao. Questo era Maurizio Ribichini, l'animatore, colui che ha curato le animazioni del documentario Bimba col pugno chiuso. Luigi Locascio, regista del film La città ideale, in uscita oggi in sala, giovedì 11 aprile. Luigi, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie davvero di avermi ospitato oggi. Oggi è un giorno molto importante, sì. è pieno di attesa e di bella tensione, ecco. Sì. Senti, è la tua prima volta a Radio Onda Rossa? Sì. Infatti sono molto contento che è venuta l'occasione proprio in un giorno in cui debutto come regista anche, non soltanto come attore. A questo punto sento che si chiude come un cerchio, perché ricordo un tuo film molto importante in cui hai interpretato Peppino Impastato, sto parlando dei 100 passi. Radio Onda Rossa è nata nel 1977 e Peppino Impastato quando venne a Roma venne proprio a Radio Onda Rossa prima di creare la sua radio, Radio Out. Quindi, Radio Out, sì. E quindi c'è questo legame, no, anche con... È molto emozionante e commovente anche questo tuo ricordo, perché appunto la radio è stato uno strumento di lotta fondamentale per Peppino. Sapeva quanto fosse importante proprio come organo di comunicazione e anche di possibilità di rivolta, quindi diciamo il modo per propagare la parola, no? un luogo libero, ecco, come può essere libera l'aria. Sì. Allora, La città ideale, raccontiamo un po' per sommi capi la trama per chi ci ascolta e vuole venire a vederlo. Sì, e dunque la storia è, diciamo, la storia di un ecologista che si chiama Michele Grassadonia. All'inizio del film lo vediamo, sta cercando di portare avanti un esperimento di vivere un anno senza energia elettrica e senza acqua corrente, quindi utilizza tutta una serie di stratagemmi per risparmiare, fa la doccia con l'acqua piovana, alimenta il rasoio elettrico con una cicletta, ha tantissime ciclette in casa proprio per evitare di sperperare l'energia elettrica, e quindi è un ecologista, ed è, questo è un ideale molto condivisibile credo da tutti noi, soltanto che lui lo pratica talmente esageratamente da creare l'effetto contrario, nel senso è qualcosa che, a parte qualche breve episodio appunto comunitario e con un'associazione ecologista, in realtà lo isola, lo rende anche un po' un personaggio scomodo per tutti gli altri che sono costretti a frequentarlo, ma appunto in una notte di pioggia, in una notte di tempesta, costretto a prendere la macchina che lui non guida ormai da tanti anni, succede una cosa che non anticipo perché il film è anche un thriller, certo. C'è un mistero da scoprire, succede qualcosa che lui stesso non sa raccontare, dai contorni sfumati, che lo fa precipitare in un incubo, appunto ci sarà un malinteso, lui farà un gesto e questo gesto sarà equivocato e da lì comincerà tutta una serie di vicende che lo tormenteranno fino appunto a un finale che non posso rivelare. Certo. Allora, perché questo titolo e il riferimento poi a una città molto bella e anche a molte delle caratteristiche che poi vengono descritte nel film come Siena? Ho pensato subito a Siena, sin dalla prima immagine del film, quando si è cominciato a delineare proprio la figura del personaggio. Il personaggio poi lo interpreto io ed è un palermitano che sceglie proprio di andare a Siena, di andare a vivere, quindi c'è un atto proprio responsabile, libero e molto, molto cioè con una forte volontarietà, cioè lui sceglie Siena perché è una delle poche superstiti, forse l'ultima, sommando tutta una serie di caratteristiche, nel mondo direi, visto che appunto è una città italiana dove appunto si sono formati un po' i comuni, una delle ultime città veramente a misura d'uomo, cioè dove effettivamente si può andare da un capo all'altro della città passeggiando, lui lo fa marciando appunto per accelerare un po' il suo passo, una città misurata proprio dall'amore, dalla custodia anche gelosa e affettuosa dei suoi contradaioli che conoscono ogni angolo, ogni pietra e la custodiscono in una maniera diciamo con una grande passione. Una città dove il teatro più importante, il teatro pubblico, è dentro il teatro sta dentro il palazzo comunale, il palazzo pubblico, quindi tutta una serie di caratteristiche che l'avvicinano appunto a un archetipo di civiltà urbana, che l'avvicinano a quello che potrebbe essere anche il concetto della polis, quindi una città autosufficiente, dove c'è un forte senso, dove sono radicate proprio le istanze che reggono proprio a Siena il concetto di senesità. Ecco, quindi in questo senso questo orgoglio cittadino, questa capacità di essere, di avere una storia e di essere percorribile in maniera appunto rapida e gioiosa, fanno scegliere appunto questa città al personaggio. Senti Luigi, perché la scelta di un personaggio, un ambientalista con dei tratti, come dicevi tu, anche ossessivi? Perché credo che solitamente quando si raccontano gli eccessi, si raccontano gli eccessi dei difetti, no? Sì. Cioè uno c'ha un difetto, quando è estremo allora ecco che viene il male, così. Invece secondo me la cosa interessante, io ci ho provato, poi non so se questo risulterà anche agli altri, è quando l'eccesso riguarda un ideale condivisibile, quando riguarda qualcosa che positivo, anche lì l'eccesso può esporre a certi rischi, ad esempio in questo caso il rischio del malinteso, quindi la comunità non è preparata a accettare queste forme che vengono viste come forme di fanatismo, no? Delle forme troppo radicali, e appunto l'esperienza che per lui è normale di fare certe cose che non posso rivelare appunto perché certo. Tocco l'aspetto giallo del film, invece dall'esterno vengono considerate come artificiose, inverosimili e quindi impossibili. Oh, intanto ti faccio i complimenti perché lo trovo un film piuttosto insolito, a partire da non solo dall'argomento ma anche dalle modalità di linguaggio e di approccio, perché ad esempio un diffuso clima onirico è piuttosto raro trovarlo nel cinema italiano, a tratti anche spesso con delle sottolineature da incubo. E volevo chiederti, per ispirarti, hai dei riferimenti dal punto di vista sia letterario che cinematografico? Sicuramente ci sono delle cose che mi sfuggono, implicite, che sono legate al mio, lo chiamo destino, nel senso di spettatore, cioè sì. Tutto quello che mi è capitato di vedere che agisce anche involontariamente. La parte invece che controllo è il lavoro che ho fatto anche sul rapporto tra immagine e suoni a teatro, insieme a Nicola Console e Alice Mangano, che sono appunto insieme a Ludovica Ferrario i scenografi, anche gli artefici dei disegni e delle animazioni, ci sono anche delle animazioni nel film, insieme a loro ho lavorato a teatro su Kafka in particolare, ma anche sulla tragedia greca, e lì è nato un nostro piccolo, attraverso un nostro laboratorio personale, privato, è nato tutto un mondo, un universo di segni, di riferimenti che ho cercato di portare anche al cinema, quindi sono delle cose che avevamo frequentato già sul palcoscenico e che adesso trovano luogo sullo schermo. Bene, allora ricordiamolo, da oggi in uscita, giovedì 11 aprile nelle sale, in quante copie Luigi? Credo in Italia partiamo in una maniera prudente con 25 copie, però ad esempio a Roma è in 4 cinema anche molto belli, quindi vi consiglio di vederlo, perché c'è tutto me stesso, non me stesso dal punto di vista biografico, ma me stesso, le mie passioni, il mio gusto anche di spettatore, quindi se vi interessa capire che cosa mi sta a cuore, ecco, andate a vedere questo film. Bene Luigi, allora un abbraccio, a risentirci presto, resta un attimo in linea. Sì. Gianluca Santoro, autore del documentario Tsunami Tour, un comico vi seppellirà, che è stato un'uscita evento ieri, mercoledì 10 aprile. Tra l'altro, intanto benvenuto a Visionare su Onda Rossa, Gianluca. Grazie a voi di averci invitato. Allora, ieri era a Roma al Cinema Alcatraz, io stavo andando al Teatro Valle a vedere il documentario di... Alcazar, Alcatraz era... Alcazar, vero, scusa, Alcazar, scusa. Insomma, sono passato un attimo per conoscerti proprio di persona e c'era un bel po' di gente, 30-40enni, sì. Diciamo, ho dato un'occhiata in giro. Sì, era un pubblico variopinto. Intanto sono contento del fatto che sia ieri sera, ovviamente, nei due spettacoli, quelli di, chiamiamoli così, principali, cioè quello delle 21 e quello delle 22:30, abbiamo registrato il tutto esaurito, quindi siamo stati molto contenti perché era un'unica data, quindi come tutte le uniche date, per di più in un giorno in cui gli amanti del calcio erano, diciamo così, attenti a seguire altre cose, e quindi forse un po' anche planificare da quello. Comunque, insomma, siamo usciti in tante sale in Italia e abbiamo registrato nelle varie città, a Roma, a Milano, a Napoli, a Padova, stasera a Torino, quindi lo dico per gli amici di Torino, se qualcuno se ne fosse, certo. Che insomma stasera è l'unica città, Torino è l'unica città in cui va in onda stasera, lo proiettano stasera. Per il resto ieri è andato bene più o meno ovunque dove l'abbiamo proiettato, quindi siamo molto contenti. Allora, sì, generazione varia, pubblico vario. Sì, pubblico vario. Gianluca, stiamo parlando di Tsunami Tour, un comico di vi seppellirà. Per chi ci ascolta e voi avete seguito la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, avete seguito più di 70 piazze, la presenza, sì, in più di 70 piazze. Allora, intanto ti chiedo come è nato il progetto e poi come si è sviluppato. Guarda, l'idea è nata al tavolino di un caffè con la mia amica e collega, che tra l'altro ha scritto con me poi il film, Chiara Burtulo, con la quale abbiamo ragionato sul fatto che noi siamo due giornalisti e ci occupiamo entrambi di politica, e abbiamo ragionato sul fatto, io avevo in testa Grillo da un po', devo dire, perché lo seguo da tempo, dai tempi dei suoi spettacoli, mi ha sempre molto incuriosito, e devo dire, dopo la traversata dello Stretto di Messina, quindi parliamo di ottobre, dove, che secondo me segna un po' l'inizio della campagna elettorale di Beppe Grillo, lì mi era scattato un pochino l'idea che forse quella poteva essere l'inizio di una campagna elettorale un pochino diversa. Poi, chiacchierando con Chiara al tavolino di un caffè, abbiamo detto, vabbè, ma sai che quando lui aveva annunciato questa cosa, avrebbe fatto questa campagna col camper, 77 piazze, 40 giorni, eccetera, abbiamo detto, beh, insomma, forse vale la pena seguirla. Abbiamo coinvolto alcuni amici, due filmmaker, che sono Alessandro Cartosio e Rosario Cardinale, un amico regista che è Giuseppe Raganato, Francesco Giuseppe Raganato, con il quale poi abbiamo chiacchierato su come impostare questa cosa. Siamo partiti un po' all'avventura e con l'idea di dire, intanto andiamo a vedere che succede e poi vediamo che succede, e qualcosa è successo, abbiamo continuato, poi piano piano insomma ci siamo sempre più convinti, andando avanti, che quell'intuizione era forse un'intuizione giusta, o quantomeno un'intuizione utile da coltivare, e l'abbiamo coltivata. Sì, sì, e sì. Abbiamo avuto la fortuna di seguire Grillo fin dall'inizio, questo ci ha permesso di essere un pochino più vicino anche a lui, questo ci ha permesso anche di vedere un Grillo inedito, se vuoi, perché era il Grillo delle prime piazze, il Grillo senza cordoni di sicurezza, delle piccole folle, non delle folle oceaniche che poi sono arrivate, poi con Milano, Torino e Piazza San Giovanni. Ecco, proprio a questo proposito, partiamo dalle piazze, Gianluca, visto che insomma incuriosisce la presenza del forte pubblico ieri, lo dimostra, l'interesse e la curiosità quantomeno, anche poi in effetti i risultati elettorali. Allora, le piazze ovunque, anche soprattutto nella provincia, stracolme, nonostante poi la rinuncia alla presenza televisiva. Insomma, l'atteggiamento verso la stampa lo conosciamo. Volevo chiederti, ecco, proprio questa folta, questa grossa presenza di pubblico, e anche poi com'era la composizione in queste 77 piazze che avete vissuto. Guarda, io devo dirti la verità, il fenomeno è cresciuto piano piano, nel senso che non è stato sempre così, nel senso che le primissime piazze erano piazze tutto sommato modeste rispetto alle altre, modeste sia in termini proprio di allestimento sia in termini di partecipazione. Per quanto riguarda l'allestimento, noi abbiamo visto anche palchetti piccolissimi, palchetti improvvisati, non dico improvvisati, ma insomma penso a Matera, penso a Brindisi, penso a Taranto, penso a Latina, cioè piazze comunque dove anche l'allestimento non era un allestimento faraonico. E la partecipazione però è cresciuta, è venuta via via, e quindi dovunque è andato Grillo ha raccolto grandi consensi che secondo noi erano, diciamo, misti, nel senso che la piazza che abbiamo avuto modo di vedere noi era una piazza popolata da tante persone, da tante anime, c'erano i più arrabbiati o incazzati, per dirla come lo dice lui, e c'erano sicuramente quelli che magari non avevano votato e quindi andavano con spirito di autentica protesta a sentire, come dire, le ricette di Grillo. C'erano molte persone incuriosite da semplicemente dal fatto che potevano vedere magari da vicino quello che prima andavano a vedere a pagamento, e però quello che io ho notato è stata la grandissima presenza dei giovani. Guarda, io quello che mi ha impressionato è stato questo, cioè l'entusiasmo di un elettorato, quindi di un pubblico che poi è andato evidentemente anche a votare, tra i giovani, penso ai ragazzi a 18, 24, 25 anni, erano veramente tanti, e questo mi ha impressionato. Per il resto erano tanti, erano differenziati, cioè abbiamo visto disoccupati, abbiamo visto professionisti, mamme con bambini, più o meno modulati sul modello di arrabbiatura. Quindi credo che non sia soltanto un voto di protesta e non sia un voto soltanto di, come dire, di un voto contro, e forse il segreto di Grillo è stato anche intercettare gli altri, insomma. Ecco, a questo proposito, anche in base all'approccio che avete avuto a questa avventura, la curiosità, che chiaramente ognuno ha il suo proprio punto di vista, però volevo sapere anche in merito proprio all'obiettività con cui avete lavorato, quali sono secondo te gli aspetti più interessanti e positivi di questa esperienza politica e quali invece i punti critici? Guarda, intanto ci tengo a dire che questo film non è un'inchiesta, quindi non è nelle premesse, non lo era nella nostra intenzione, non lo è stato, sì, poi nella fase di realizzazione, quello di fare un'inchiesta su Grillo, sul Movimento 5 Stelle, su cosa c'è dietro, su come quelli sono aspetti, diciamo, che noi non abbiamo voluto toccare, ma non per, come dire, spirito di, come dire, per omertà, ma semplicemente perché non era questa la nostra ambizione, sì, la nostra ambizione era seguire la campagna elettorale. Okay. Detto questo, ti dico che gli aspetti politici, diciamo così, più interessanti sono forse i meno politici, nel senso che quello che mi ha colpito molto è l'umanità di Grillo. Grillo io l'ho visto non sottrarsi mai, anche al contatto fisico col pubblico spesso, cioè non è mai stato paracadutato in un comizio, è sempre arrivato ai comizi, non si è mai sottratto prima al confronto e non si è mai sottratto dopo, cioè la metodica con cui lui si è approcciato alle singole piazze era sempre la stessa, il camper arrivava, la gente lo aspettava e lui si faceva aspettare. Dopodiché, facendosi aspettare, era evidente che non si volesse sottrarre al confronto. Questo ci ha permesso anche di vedere dei momenti che ci sono raccontati nel film di confronto anche spesso aspro, se vuoi. Si vedono momenti in cui sono quasi del contrasti, insomma, con la gente. Lui però non si è mai sottratto, e questo secondo me è un aspetto, forse l'aspetto più interessante. I punti critici, come dire, io non li racconto, ma perché non li abbiamo voluti raccontare nel film, perché non, come dire, non era questa la nostra intenzione. Quello che posso dire è che ovviamente ci sono degli aspetti che forse più che di Grillo non mi hanno convinto, erano molte delle persone che andavano a vedere Grillo, perché io quello che dico è che il vaffanculo, il vaffa, insomma, famoso, in bocca a Grillo ha un senso, un significato, quella invettiva, quella forza lì ha un significato politico, visto magari nella bocca di chi lo andava a sentire nelle piazze. Quello mi ha un po' inquietato, perché comunque sinceramente mi sembrava, ecco, quello sì, un pochino troppo un giudizio privo di una analisi magari più approfondita, quindi a me i giudizi tutto sommato così mi spaventano un po'. Senti, allora volevo sapere a questo punto, visto che c'è stata solo l'uscita evento di ieri, mercoledì 10 aprile, Gianluca, dove sarà possibile poi poter vedere Tsunami Tour, un comico vi seppellirà? Guarda, noi intanto speriamo, approfitto biecamente della radio per fare un appello alle sale cinematografiche che volessero riproporlo, che noi siamo ben disponibili e ben lieti, essendo autodistribuiti, di riproporlo anche al cinema qualora qualcuno fosse interessato. Diversamente bisognerà aspettare fine mese per uscire, perché uscirà in DVD con la spedding, con un librettino allegato, e speriamo che si quagli un contatto televisivo che abbiamo, che non dico per scaramanzia, ma insomma un contatto televisivo che la Protos, che l'ha prodotto, che ha prodotto il film, ci dice ben avviato, quindi speriamo anche di vederlo in televisione. Noi saremmo anche ben contenti di riproporlo anche al cinema, perché abbiamo visto che il grillo sul grande schermo fa un certo effetto diverso da quello televisivo. Quindi a Roma speriamo anche di poterlo riproporre magari in circuiti più piccoli, ma insomma comunque siamo disponibili anche a riproporlo in questo senso, diversamente in DVD o in TV a fine mese. Il DVD esce sicuro, la televisione speriamo. Va bene Gianluca, allora ci farai sapere, un abbraccio e a risentirci grazie presto. Grazie a voi, un abbraccione a tutti, grazie. Ciao Gianluca. Gianluca Santoro, coautore del documentario Tsunami Tour, un comico vi seppellirà. Allora, siamo in orario di Teatro Valle Occupato, però visto che quest'oggi la trasmissione di Attica Blues ci comunicano che non andrà in onda, facciamo un ultimo collegamento per quanto riguarda Visionari, poi il Teatro Valle, che potrà allungarsi anch'egli a piacimento un po' più in là. Un ultimo collegamento per parlare di cinema indipendente a Napoli. Maurizio Fiume di Indie Napoli Cinema, per parlare con lui del Forum Cinema Indipendente, il cinema con i piedi per terra a Napoli, ieri e oggi. Maurizio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, salve. Allora, raccontaci un po' di questa due giorni che è in pieno svolgimento sul cinema indipendente a Napoli. Sì, l'idea è quella appunto di riuscire a parlare di un cinema possibile oggi anche grazie alle nuove tecnologie, ma soprattutto anche una capacità, no, di trovare nuove storie, di essere anche rapidi nel cogliere le cose che succedono. E abbiamo pensato a questi due giorni di interventi di cineasti esperti del settore. Sono venuti Stefano Pierpaoli di Rete Cinema e Territorio, è venuto Roberto Perpignani, il montatore di Cesare Deve Morire. Oggi vengono Dario Formisano, produttore, Gianluca Arcopinto, che è anche il produttore esecutivo della serie Gomorra, Andrea D'Ambrosio, Andrei Longo, insomma tante persone che intervengono e ci interroghiamo su che cosa operativamente si possa fare rapidamente per aumentare i lavori, i film che si producono. Noi una delle cose che noi diciamo sempre è che il nostro lavoro è anche una formazione sul campo. Noi per poter puntare all'eccellenza, perché la qualità è l'unica cosa sulla quale resta, che è una cosa riconoscibile, i film si riconoscono se sono buoni o se non sono buoni, e per puntare all'eccellenza bisogna lavorare molto, produrre molto, riuscire a essere sempre più innovativi e nelle storie e nel modo di come si realizzano i nostri lavori. E questi due giorni ne stiamo discutendo per capire quali possono essere gli strumenti, le modalità con le quali appunto possiamo più facilmente realizzare i nostri lavori. La nostra è un'associazione, non un'associazione qualunque, ma un'associazione di cineasti napoletani, siamo una quindicina, ventina di persone che da due anni si stanno occupando del cinema a Napoli. Ce ne stiamo occupando non da singoli cineasti, ma come dire, sulle problematiche comuni. Abbiamo elaborato un progetto di legge regionale del cinema indipendente che è in fase di approvazione al Consiglio regionale della Campania, è stato già approvato dalle commissioni competenti, e quindi abbiamo un progetto che secondo noi, con le risorse attuali, quindi non siamo i soliti artisti che vogliono altre risorse, noi diciamo semplicemente dobbiamo trovare il modo che le risorse attuali vengano meglio utilizzate e soprattutto ci consentono di fare molti più lavori di quelli che oggi riusciamo a fare. Allora Maurizio, diamo anche gli estremi per saperne di più sulla vostra associazione, anche su questa due giorni, qualche riferimento internet. Come no, noi siamo ovviamente su Facebook, ci trovate facilmente in Di Napoli Cinema, sì, abbiamo una pagina, sia un gruppo, poi per questa occasione del forum abbiamo aperto anche il gruppo Forum Cinema Indipendente, e poi abbiamo un sito che è indinapolicinema.it, ma anche su Twitter ci trovate in Di Napoli Cinema. E per invece i luoghi e gli orari? I luoghi questo... siamo nel centro storico di Napoli, siamo a due passi dalla famosa pizzeria Sorbillo, che tutti dovrebbero conoscere, su via Tribunali, su via Atri c'è questo largo proprio di Arianiello, e il palazzo Filangieri che ospitò Croce e Grecia, e l'unico portone che c'è, il numero 12, largo proprio di Arianiello 12. Noi dalle 18 alle 23 facciamo questo forum e oggi siamo alla seconda giornata. Benissimo, allora ci farai sapere anche degli atti, dei lavori, insomma i risultati. Assolutamente, pubblicheremo un resoconto completo di tutti gli interventi. Maurizio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi, saluti al pubblico. Ciao. Ciao. Bene, siamo in chiusura per quanto riguarda Visionari, torniamo giovedì prossimo dalle 14 alle 15. I riferimenti, il sito internet della radio è ondarossa.info alla pagina trasmissioni Visionari e poi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Per gli sms 342-357-4357 e poi c'è anche la pagina Facebook di Visionari. A questo punto ci salutiamo e ci diamo appuntamento a giovedì prossimo.